passione tra le mie vene, flusso sanguigno irregolare. Non preoccuparti, io sono il dottore, io so curare ogni dolore. Ho conosciuto una donna che si chiamava G, e dopo 5 anni sono ancora qui, che mi chiedo cosa fai nella mia testa G. Dopo tutto questo tempo sei ancora